si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funky up, uptown funky up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Ben ritrovati con Si può fare, 8.30 fino alle 10, questo palinsesto in questa versione autunnale, con una di meno rispetto all'anno scorso. Ma è una maratona su tutti gli avvenimenti della settimana, e abbiamo in realtà un po' di tempo in più all'inizio puntata per cominciare. Un buongiorno anche a Lorenzo Nespoli in assistenza in redazione, oggi in regia, e Pietro Lacorte in va bene. Adesso mettiamo anche c'è la musica sotto, è perfetto. Adesso accendiamo il motore diesel della Volkswagen. Esatto. Milano Monterosa nuvolo, no sta spuntando il sole e potrebbe anche venire fuori una bella giornata. Allora, intanto una questione di servizio: ieri il gioco lo ha vinto Maria, che ha chiamato per dire che la sua epoca storica preferita era l'epoca di Ramses II, l'Egitto, l'antico Egitto. Perché ci sono state polemiche? No, non ci sono state polemiche. Anche sì. No, pensavo ci fossero state polemiche fra gli ascoltatori che avevano chiamato dicendo: ma no è meglio. Io ho detto Pompei. Non l'avevamo fatto perché abbiamo chiuso proprio all'ultimo secondo, allora dovevamo dirlo. Vince lei, che con la postilla di dire: in ogni epoca nella quale vorresti, diciamo, essere nato, c'è sempre da sperare di nascere dalla parte giusta, perché se caschi dalla parte sbagliata finisce male. Questo, diciamo, per chiudere così la settimana di Miss Italia. Il bello è chiedersi nel 42 quale sia la parte giusta, perché insomma lì la guerra è ancora incerta. Va bene, 800 24 00 24 cari amici all'ascolto, in questa nuova versione di riepilogo delle notizie della settimana, ma sempre a caccia naturalmente di buone pratiche, di buone notizie, l'unico inimitabile programma che fa questo. Potete chiamare per commentare tutto quello che volete, per giocare con noi. Cerchiamo un personaggio della settimana di domenica, come da tradizione, anche con un'ora in meno, noi cerchiamo sempre un personaggio della settimana che deve essere, che è un personaggio che ha una notizia legata a questa settimana. Il primo indizio è facile: è un politico. Paf, così. È facile e insieme difficile. Sì, è larga, però è anche stretta. Non so come dire. È tutto. È un politico. 800 24 00 24. Blessed us. From him we have received mercy. Assured of God's love, go out to the world so that by mercy shown to you, they, your friends, co-workers, neighbors, countrymen, everyone of this great continent may now receive the mercy of God. It is by his mercy. Ma tu hai capito cosa stai sentendo? Hai capito bene che stai sentendo il Papa che canta? Certo! Certo, è il nuovo disco del Papa, esce il 13 novembre ed è il primo disco di un Papa nella storia. Tra l'altro, ho la sensazione che andrà bene. Avrà successo, probabilmente. Questa è la settimana del Papa, Papa in America, adesso sentiremo anche un passaggio. Papa prima a Cuba, poi negli Stati Uniti, Papa acclamatissimo, è un Papa della Madonna. Perché è una citazione, No, perché ieri Madonna ha dato la sua benedizione al Papa, ha detto: questo Papa mi piace. Madonna in odore di conversione, perché insomma si dice che si stia convertendo alla religione ebraica, però sì. Quindi spiace, la Chiesa sta perdendo un pezzo? No, anzi, ne sta acquisendo di nuovi, nuovissimi. Sentiamo un pezzettino del Papa in inglese che parla con Obama. Mr. President, once again, I thank you for your welcome. God bless America. insomma, il Papa che ha detto tante cose, ha detto che bisogna basta armi, basta pena di morte, questo detto in America è abbastanza importante, le cronache le avete lette tutti. No, molto molto importante, sì. Ha parlato direttamente di pena di morte negli Stati Uniti, sì. Cosa che nessuno di solito ha il coraggio di fare, nemmeno i presidenti, perché poi si perdono le elezioni. Esatto, poi ha detto ai vescovi americani, molti coinvolti, perché hanno coperto gli scandali sulla pedofilia, ha detto siate dei pastori, basta con la pedofilia, insomma ne ha cantate. Sembra sempre di più un supereroe, no? Infatti, sì. Tu dici il Papa a Cuba, il Papa in inglese, il Papa, cioè sembra sempre un po' la Papa mobile, sembra sempre un po' un supereroe. Ed è così, ed è proprio così. C'è da capire magari quanto di questo Papa ci sia di immagine, no? E quanto ci sia di sostanza. Perché la famosa rivoluzione del Papa, la Chiesa francescana, la Chiesa che torna alle origini, insomma, lui si sta comportando così, è arrivato da Obama in 500, hai visto? Poi sì. Dopo ha usato la Papa mobile, però insomma cambia macchina molto. Sta scardinando parecchi riti. Ma la vera domanda è se fosse una Volkswagen o meno quella, però. E qui mi arrivi al secondo tema importante della settimana, lo scandalo Volkswagen. Siamo partiti con questa ammissione della Volkswagen di aver utilizzato un sofisticatissimo software per aggirare i dati sulle emissioni antismog sul mercato americano. Con precisione, me lo devi spiegare bene, perché ho capito lo scandalo, ho capito che baravano sulle emissioni, ma non ho capito bene cosa facesse. Sì, adesso poi ce lo facciamo spiegare da un personaggio straordinario che sarà il nostro ospite tra pochissimo. In pratica... loro facevano questo, cioè il software che gestisce la combustione dell'automobile, che è quello che diciamo poi fa sì che si possano misurare le emissioni di elementi inquinanti. Quando l'auto era messa sui rulli che fa il test, certo. Il test delle emissioni va a una certa velocità, l'auto è sospesa a una certa altezza da terra, il software riconosceva che era il test e allora faceva in modo che la macchina emettesse meno inquinanti. Molti, molti meno, e quindi superava il test brillantemente. Quando poi l'auto era su strada, in condizioni completamente diverse, quelle normali, era un disastro. Ma si può averlo per fare le revisioni dei motorini? Che io ho dovuto rottamare il mio? Dovresti chiedere a Herr Wintercore, che adesso è libero, ha molto tempo libero perché non ha più un tubo da fare. Anche 2 lire, mi sembra di aver capito. Quasi 60 quasi milioni 60... di buona uscita. Sì, no, però in realtà sono 30 milioni di pensione e gli altri 30 adesso deciderà il board, perché sono due sue annualità, da quello che ho capito. Lui prende 15 milioni all'anno. Vabbè, insomma, poi il resto lo sapete, c'è un nuovo amministratore delegato, Mr. Müller, in questo caso. Arriva sempre un Müller a un certo punto. Sì, quando c'è un problema in Germania arriva un Müller. Forse la BMW coinvolta, l'Unione Europea, notizia di ieri del 2013, avvisava le case automobilistiche di stare attente in questi software, quindi forse già sapeva. Sentiamo un po' di voci di settimana, va? Gasparri e il sottosegretario De Vincenti. Le risatine della Merkel, io lo so che pensava sedere, a quelle, sì, alle risatine della Merkel e di Sarkozy. Se ne deve andare la Merkel, se ne deve andare il ministro della Volkswagen. La prossima volta che un tedesco ci dice qualsiasi cosa, zitto imbroglione. Noi abbiamo zitto imbroglione. Possiamo tranquillamente dire zitto imbroglione. Quello che dobbiamo fare e che faremo già nei prossimi giorni è avviare le verifiche che consentano di stabilire se c'è stato un fenomeno di questo genere anche da noi. Vogliamo la massima tutela dei consumatori italiani e la massima tutela delle norme ambientali. Salutiamo il professor Gianfranco Rizzo, professore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Salerno. Buongiorno. Buongiorno, Dipartimento di Ingegneria Industriale, per essere preciso. Buongiorno. Era talmente buongiorno. Difficile che non si poteva non sbagliare. Lei è anche ideatore del iSolar Kit, di cui avevamo parlato qualche tempo fa, un kit che si applica alle automobili normalissime per trasformarle in auto solari, ed è un progetto a cui lei sta lavorando da un po', un progetto che ha riscosso un certo successo. Anzi, con lei vogliamo fare il punto anche su questo, perché mi sa che il futuro non è più il diesel, o no? Certo, certo, ma il diesel ci sarà sicuramente. Adesso si tratterà di superare questo problema. Però certamente ci saranno altre soluzioni, alcune se ne si stanno già facendo, come l'ibrido, sì. Come l'elettrico.

il Papa. Io ho detto l'indizio è un politico, perché il Papa secondo lei giustamente fa politica. È anche un politico. È interessante. Risposta straordinaria. È quasi più interessante, visto l'indizio, dire il Papa. Mi sembra che sotto ci sia qualcosa. Esatto, un'informazione. Però non è il personaggio che abbiamo scelto, ma la ringraziamo moltissimo di aver chiamato. Grazie Gemma, il personaggio è un altro politico. 800 24 00 24. Dopo il GR delle 9, a dopo. Lunedì 28 settembre alle 9 torna Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste e i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori, Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno. Ben ritrovati con Si può fare, 8.30 fino alle 10. C'è subito una rettifica, prima sì. Abbiamo fatto sentire la canzone dove c'era il Papa che cantava perché esce il disco, abbiamo detto il primo disco, invece Don Luca ci scrive un sms al nostro 349-238-6666 dicendo: Giovanni Paolo II, Abba Pater, il disco è anche su Google. Papa Francesco non è stato il primo a fare un disco, essendo Aia. Don Luca, che ho sbagliato, non lo conosciamo. Però salutiamo. Avevo letto da qualche parte che era il primo disco. Beh, insomma, questo è un disco, perché quella che avete sentito prima era proprio una vera e propria canzone. Altre sono, diciamo, evocazioni, passaggi letti dal Papa, eccetera, eccetera. Questa era proprio una canzone. Non so se nell'altro disco del Papa. Aspettiamo, chiediamo a Don Luca di mandarci degli altri sms. Verificare. Non siamo proprio su questa materia, diciamo, due esperti. Esperti no. LP papali non è esattamente il tema per il quale ci siamo preparati. Allora, andiamo con gli ascoltatori. Cominciamo con Lucio, che ci chiama da Bari. Buongiorno. Lucio. Buongiorno. Senta, io sono un ingegnere appassionato d'auto. Sì. Comprai nel 2012 una Passat d'occasione, che era una bellissima macchina. Sì. Molto dotata, purtroppo ha messo a rischio la mia vita. La cosa grave è che questo difetto non l'ho avuto solo io, ma altri 8 milioni di utenti che insieme a quattro ruote hanno fatto una classetta. Che succede? Che per colpa di un alberino la quattro ruote ha fatto il difetto del mese sulla rivista dell'epoca, si cale 8 con l'alberino. In definitiva, un errore di progettazione e di materiali ha fatto sì che questo alberino, che trasmette il moto alla pompa dell'olio, cede, la pompa non funziona più e gli esperti della Volkswagen che fanno? Pensano al motore. Cioè, c'è un programma in una centralina, si chiama Safety Motor, il quale, per salvare, se parte subito immediatamente scoppia il tubo compressore, perché quello nel giro di pochi secondi, non avendo alimentazione di olio. Scusi, ma lei è sicuro di aver fatto il numero giusto? Secondo me doveva chiamare il servizio clienti della Volkswagen o... Sì, ma io gli ho messo in mora, sì. Con loro un contenzioso, no. Perché questi signori, sì, sapevano perfettamente questo inconveniente, quindi in maniera proditoria, con la stessa furbizia con cui hanno barato col punto, sì, non hanno ritirato dalla una vettura che mette a rischio la vita, il che mi sembra un po' più grave di barare sulle emissioni. Hanno barato. Beh, sicuramente. No, sul più grave non lo so, perché qua si sta parlando di un'accusa, sì, potrebbe essere di disastro, allora, ambientale, di e quindi stiamo, cioè, esatto. Una mentalità in cui l'utente finale, diciamo, vuoi che sia un'emissione, vuoi che un altro difetto, non viene informato, o quantomeno si bara e si dice che emette. Va bene, Lucio. Un numero, cioè un, sì, sì, sì, no, mi dispiace per il suo caso, però devo dire che chi non ha avuto problemi magari con altre marche automobilistiche o con altri oggetti acquistati sul mercato, può capitare e non fa piacere. Sì, paradossalmente. Però adesso chiaramente si sommano, no? No, più che si sommano, paradossalmente, invece a me sembra molto interessante Volkswagen. Sì. Il discorso che sta facendo l'ascoltatore dicendo questo metteva a rischio la mia vita. Solitamente è quasi il contrario: nel momento che mette a rischio la vita ci si muove, perlomeno si dice bisogna modificare. Sì. Nel momento invece in cui si inquina, siamo tutti talmente abituati che quando si inquina l'ambiente comunque in qualche modo si pagherà una multa e ci si metterà d'accordo. Invece la netta sensazione è che anche barando sulle emissioni in realtà si creano dei morti, non è che semplicemente si è barato un po' sulle emissioni e quindi ci si prende una piccola multa, solo che i numeri sì. non si possono anche contare, se, non è che si può decidere chi è morto di tumore a causa delle sì. emissioni. Anche se bisogna dire che queste automobili che circolano oggi, per quanto con le emissioni truccate, sono molto meno inquinanti di quelle che circolavano 30 anni fa o 40 anni fa. Questo sì, sì, però detto. Questo non è... Non... Ed è un paradosso, è un paradosso. Cioè, abbiamo sempre pensato che fossero meno inquinanti, ma siccome non sappiamo chi ci diceva delle emissioni, secondo me non possiamo nemmeno dirlo. Stefano da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo partecipare alla trasmissione la notizia della settimana. Prego, è in onda. Personaggio della settimana, sì? Il personaggio della settimana penso che sia il sindaco Marino, che ha soccorso sul volo New York-Roma due passeggeri, che è un modo come un altro di parlare bene di Marino una volta tanto. Ma giusto. Lo dice con ironia o... No, lo dico seriamente, perché ha fatto il medico e so che è medico. Ecco, certo, qua. Sì, certo, sì, è sì. chirurgo. Ecco, infatti. No, non era lui però, non era lui Stefano. Però grazie. Ringraziamo per aver dato la notizia, che è effettivamente una bella notizia. Sul volo per New York Marino ha soccorso e salvato due passeggeri. È la prima cosa medico. Buona che fa da due no, anni a questa parte. Questo non lo penso minimamente. Silvano da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Le auto storiche, non auto d'epoca, quelle storiche che sono agevolate dal punto di vista fiscale in Italia, eccetera, sono tutti catorci vecchi. Il Ministero dell'Ambiente. Beh, magari catorci no, magari catorci no, sono vecchi, ma sì, sono no, anche sono auto bellissime. Vecchi, ma qual è la differenza? Qual è la differenza fra auto storiche e auto d'epoca? Mi scusi, che sono ignorante. Ah, non sa cosa sono le auto d'epoca e le storiche. Le storiche no, sono ad esempio sì. le 500, le 600, queste auto così. Le auto d'epoca sono quelle degli anni 30, 50, le auto di un certo prestigio. Ho capito. Già, guarda, le auto storiche sono semplicemente delle auto vecchie, diciamo. Però scusi Silvano, no, le auto d'epoca, che come dice giustamente lei, le definisce dei catorci, dei vecchi catorci. No, le auto d'epoca sono delle bellissime sì. macchine. Le auto storiche che lei definisce, però non vanno in giro, cioè non vanno, non ne vedo moltissime. No, però no, dice no, circolo alcune e tantissime, anche perché hanno l'agevolazione fiscale sul bollo sì. e in più hanno l'agevolazione sull'assicurazione. Guardi, io ho una Vespa storica, come dice lei, però non circolo, quindi risulta all'anagrafe dei veicoli, però è ferma. E casa, poi la percentuale di auto storiche sul parco macchine non italiano è alte, questo quant'è? Che voglio dire. Questo che ma voglio inquinano, dire. Inquinano tantissimo, vanno ancora sì. con la benzina messo dentro e sì. diciamo qualcosa che le fa circolare, perché non trovano più la benzina, quella al piombo, no? Certo. L'additivo. Vabbè, però vabbè. Forse sull'auto storica appunto ce ne si può occupare, mi sembra un problema meno grave del fatto di decidere che invece milioni di automobili che vengono prodotte oggi ci viene detto che emettono poco materiale inquinante e invece ne emettono molto di più. Esatto, lì è una truffa, nell'altro caso è una concessione che viene fatta a queste auto storiche che lei mette in discussione, dice basta con questa roba qua perché inquina lo stesso, forse ha ragione. Va bene, 800 24 00 24, Carlo, indizio, bisogna rilanciare il gioco con gli ascoltatori. Diamo un altro indizio. Un secondo indizio è che il nostro personaggio si è fatto prendere dalle emozioni. 800 24 00 24, tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Veniamo con il riepilogo delle notizie della settimana alla politica, quella che insomma già normalmente riempie i talk show lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, credo anche sabato e domenica. Quindi assolutamente non è che ci sia sì. molto da aggiungere, soprattutto in chiave si può fare. C'è l'accordo dentro la maggioranza per gli emendamenti alla riforma del Senato. Questa è una questione. E cerchi di alzare il tono come per dire: sì. ragazzi, è una notizia questa. Notizia, lo so che ne stiamo parlando da mesi, solo di questo. Da anni forse. La fine del bicameralismo. Vabbè, insomma, ci sono gli 82 milioni di emendamenti di Calderoli. No, bisogna ridere per forza. Però Calderoli ha usato un software per sì, produrre. Ne parla da un po' di questo software. E la cosa l'inventore incredibile... del software è lo stesso, ovviamente, di quello che lavorava per la Volkswagen. No, però ne parla sempre anche con una certa ilarità e gioia che trovo. Con orgoglio, quasi. Con orgoglio trovo incredibile. Poi, nel senso che ha trovato un software che semplicemente cambia delle singole parole e crea in automatico milioni di emendamenti. Io questa cosa l'ho un po' studiata perché credo che sia lo stesso software che sia stato regalato a Giovanardi per gli emendamenti sul DDL Cirinnà, che esatto. a causa del Senato è molto facile che verrà slittato e quindi non verrà approvato entro il 15 ottobre, che è il DDL sulle unioni civili. Avevamo intervistato Calderoli quest'estate e aveva detto 500.000 emendamenti e sembrava una cosa folle, no? Eccetera. Poi li ha ritirati quelli in cambio certo. di una. Ha schiacciato un bottone e ne ha tirati fuori 82 milioni. Vabbè, sentiamo un po' di voci di settimana. Sentiamo Renzi. Sentiamo, vai, comincia con Renzi. Modifica di una norma già approvata con una doppia conforme. Nel qual caso, se apre su questo, credo che sarà opportuno convocare una riunione di Camera e Senato trattandosi di un fatto che avrebbe le caratteristiche dell'inedito. L'algoritmo che introduce una quarta, tra virgolette, dimensione che teoricamente a seconda dell'inclinazione dell'asse può produrre emendamenti all'infinito. Può essere usato anche per altri provvedimenti, Questo era quello che dicevi tu. Senti con che piglio. Esatto. Guardate che questo software è una figata, cioè possiamo usarlo altre volte. Sì, sì, è un software che incrica la democrazia. È interessante parlarne con questa gioia. La fine dell'ex gioia. Ministro della semplificazione. Quest'uomo qua è stato ministro per la semplificazione. Fantastico, ancora Calderoli. No, sono una difesa della democrazia, perché questa riforma è una riforma veramente pericolosa e rischia di mettere un uomo solo al comando, modello fascismo o nazismo. Abbiamo tentato con le buone di cambiare la riforma, non lo hanno capito, adesso proviamo con le cattive. Gli 83 milioni di emendamenti presentati da Calderoli francamente mi sembrano una caricatura della democrazia e anche un'offesa alla funzione parlamentare. Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Napoli, Caravan Napoli Petrol. Petrolifera, Caravan Petrol, Caravan Petrol. Ma già affittato no camel, ma già cattato no turbandari, nascendo con pennacchio rosso e blu. Vabbè, io questa l'ascolterei tutta e più volte di fila. La settimana, per quanto riguarda la politica, ci lascia però anche un altro argomento di politica, di una politica diversa, fatta per esempio di referendum, perché è in corso una raccolta di firme per sostenere dei referendum. Noi ci interessiamo soprattutto di quelli ambientali e ne parliamo con Mario Tozzi. Buongiorno. Buongiorno, anch'io mi interesso solo di quelli e tengo a specificarlo perché sì. la richiesta è per tutti i referendum, ma io sono concentrato su quelli. Su quelli ambientali. Allora, sì. Allora, prima di tutto c'è il tema delle trivellazioni, perché cos'è lo Sblocca Italia, Tozzi, che prevede la possibilità di fare in maniera semplificata rispetto all'iter tradizionali nuove trivellazioni nei mari italiani? Sì, non solo nei mari, anche a terra, è proprio questo. Già in Italia è facile perforare perché le royalties che il governo italiano chiede da sempre alle compagnie sono molto basse, per il motivo che un tempo si pensava che non ci fossero idrocarburi, dunque si voleva incentivare la ricerca. Esatto. Sì. E sono molto basse, immaginiamo che in Nigeria arrivano addirittura al 70%, o in altri paesi pure, dove non è nazionalizzata, da noi invece erano intorno al 10%, dunque una cosa molto, molto limitata. Ora si vuole rendere tutto questo ancora più semplice nella parte di richiesta dei permessi, eccetera. Dal mio punto di vista vista è un errore fondamentale, non tanto per i problemi che le trivelle possono provocare, sono molto limitati, anche gli incidenti in linea di massima sono limitati. Il problema vero è che rischiamo di affidarci ancora una volta ai combustibili fossili per il futuro, che fa veramente ridere se non facesse piangere. Cioè, una via che va abbandonata, non c'è nessun motivo di andare ancora a cercare petrolio e gas. Quella va abbandonata il prima possibile per concentrare ricerche, sforzi e denari tutti quanti sulle altre forme di energia che non inquinano e non lasciano storie. Ma diciamo, il petrolio che si estrae già in Italia, in Basilicata, credo, no? Fondamentalmente. Sì. Cioè, abbiamo dei giacimenti che giustificano questo, diciamo, rinato interesse da parte del governo sulle trivellazioni? Cioè, potrebbero tirarci fuori dalle questioni energetiche? Naturalmente no, soltanto loro, però certamente i giacimenti lucani sono classificati giant, cioè sono enormi, sono i più grossi giacimenti onshore, cioè a terra, che ci siano in Europa, se si trascurano appunto quelli del mare del nord, dunque sono molto importanti, però anche considerato tutto non riuscirebbero a spostare che di alcuni limitatissimi punti percentuali la nostra dipendenza dall'estero, dunque non è quello il motivo. Si potevano utilizzare come una riserva strategica per il futuro, insomma, ma non sono certamente i giacimenti su cui puntare. Sì, ma tra l'altro, sì, ecco appunto, ma adesso dico una cosa magari un po' da complottista, no? Da teoria del complotto, ma estrarre il petrolio da zone tipo, insomma, il territorio italiano e la zona appenninica, che è, sappiamo, zona sismica, potrebbe avere anche delle, cioè, gettare qualche ombra su questo? Cioè, dobbiamo temere eventualmente? No. Non in senso stretto, nel senso che l'unico motivo per cui le trivellazioni possono indurre una sismicità è quando si usa il cosiddetto metodo del fracking. Il fracking è cos'è? È insufflare liquidi, fluidi a pressione nel sottosuolo per indurre una fratturazione nelle rocce e poter captare più petrolio. Cavolo. Ora, questo è suscettibile di provocare limitati sismi e di innescarne qualcuno, ma in Italia non si è quasi mai usato, quindi anche tirarlo in ballo rispetto ai terremoti del passato è sbagliato. Si usa soprattutto in Arabia Saudita e in altri paesi dove non ci sono problemi di abitazione, città vicine, dunque lo si usa. Io personalmente, ecco, vedi, sono però, anche scusi Tozzi, voglio dire, sì, una cosa, vedi perché ci piace Mario Tozzi, perché ci spiega le cose, ci spiega che le cose, esatto, senza magari cadere in queste cose facili propaganda. Oh, il petrolio, certo, no, perché c'è, sì, e poi è l'unico professore che lui giustificarsi e dice: no, io mi sono preparato solo su un referendum, non rispondo sugli altri, quindi no, mi sono sentito subito a casa. Comunque, per finirla sul fracking e su questi metodi, non è tanto secondo me la paura che inducano, sì, danni, quella è veramente molto limitata, anche come magnitudo, no? È sempre molto limitata. Il problema è che è affidarsi a una strategia energetica che ormai è fallimentare, l'abbiamo visto in tutto il mondo. Ancora ci dobbiamo domandare se vale la pena estrarre petrolio, quanto durerà. La cosa che ci dobbiamo domandare è quanto riusciamo a fare a meno di tutti i danni collaterali che prova. Questa è la cosa che dobbiamo discutere. Per questo io sono contrario a incentivare nuove trivellazioni, non per i danni eventuali davvero dubbi che possono provocare. Nel senso che non è il combustibile del futuro, diciamo. Ma no, ma insomma sembra far ridere, no? Cioè, noi all'inizio del terzo millennio andiamo ancora cercando il petrolio. Boh, non lo so, mi sembra una cosa. Quando abbiamo degli obiettivi energetici al 2050, al 2030, di ridurre le emissioni inquinanti, di affidarsi sempre più alle rinnovabili, l'Italia peraltro lo sta facendo, non so se lo sapete, ma per qualche tempo, nelle estati scorse, già da 2 anni ormai, sì, tutto il fabbisogno energetico italiano è derivato dalle rinnovabili, tutto quello elettrico, tutto quanto. Vuol dire che si può fare. Questo lo mettiamo nel promo. Esatto, non ho capito, cioè, ringraziamo. Solo d'estate però questo succede? Beh, d'estate perché il sole e il vento hanno una massima possibilità, certo, di attività, oltre all'idroelettrico e al geotermico che già ci sono sempre. Quindi, ma scusi, cioè, l'estate che è appena trascorsa è stata un'estate nella quale il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato soddisfatto da energie rinnovabili? È stato, naturalmente quel fabbisogno è cresciuto perché ha fatto, sì, più caldo, dunque noi abbiamo i condizionatori. Esatto, infatti era per quello che ce lo chiedevamo. Sì, quello da qualche anno ormai i consumi elettrici invernali sono uguali a quelli estivi praticamente, quelli almeno domestici. Ma quanto più c'è sole e insolazione, tanto più funzionano con maggiore efficienza e più a lungo i pannelli solari, e spesso le condizioni di vento sono favorevoli, anche il vento è generato in ultima analisi dal sole. Dunque, questo porta un supporto di queste fonti che è arrivato in qualche caso a supplire al 100% il fabbisogno elettrico, in molti casi al 50% e stabilmente siamo al 30% ormai. Dunque, non è quella cosa che si diceva un tempo, ma chissà quando potremo, col sole ci facciamo andare la Fiat. No, col sole non ci fai andare la Fiat, ma ci puoi fare tutto il resto. No, no, a parte che abbiamo appena intervistato invece chi dice chi ha inventato una macchina che va anche a energia solare, quindi assolutamente. Quindi ci va anche la Fiat. Il mitico professor Rizzo dell'Università di Salerno. Sì, prego Tozzi. È la fetta dei consumi domestici sulla quale il solare può influire per due ragioni. Certo. La prima perché la metà degli italiani vive in villette uni o bifamiliari. Lì il solare te lo fai da solo in casa, non dipendi più da una centrale, lo curi molto di più, sprechi molto di meno. È il vero decentramento energetico, cioè il rovesciamento del sistema di energia che è determinato da una centrale, almeno per i consumi domestici. E noi in questo contesto vogliamo andare a cercare ancora petrolio, francamente mi sembra una cosa un po'. È come se entrassi in un negozio e chiedessi una radio a valvole. Vabbè, può darsi che c'è, ma non lo so, insomma. Mi sembra molto preciso l'esempio e molto chiaro. Senta, c'è un altro tema, no, che non credo riguardi direttamente il referendum, quello degli inceneritori, però è un tema su cui pure lei ha parlato e su cui il governo, insomma, ha allo studio, credo sempre tramite lo Sblocca Italia, la costruzione di 12 nuovi inceneritori. Le regioni contestano, ovviamente contestano, ma anche certo, quelle dove non ci sono inceneritori, magari al sud qualcuno forse ce ne vorrebbe di più, almeno dando un'occhiata, diciamo così, alla mappa geografica degli inceneritori in Italia, sono quasi tutti al centro-nord, però ecco, anche qua cosa si può dire? Ma sì, allora, di inceneritori in Italia ce ne sono già abbastanza, in alcune regioni come l'Emilia Romagna ce n'è uno per provincia, dunque dove ci sono io non ne farei una battaglia, diciamo, come posso dire, ideologica, nel senso che lì si cerca di farli funzionare il meglio possibile col minor carico inquinante possibile e vabbè, ma farne nuovi anche qui è da un punto di vista energetico assolutamente perdente, nel senso che se io brucio, che ne so, una penna, diciamo per dire, ne ottengo sempre molta meno energia di quella che ci ho messo per crearla, dunque sono sempre in perdita questi aggeggi qua, quando l'alternativa ce l'hai, che è quella di recuperare al massimo tutti i rifiuti che ci sono. Al massimo che cosa significa? Puoi arrivare a recuperarli al 100%? Beh, probabilmente non adesso, ma insomma puoi arrivare a percentuali vicine all'85, al 90%. Allora significa che non hai bisogno. Siccome però gli inceneritori sono apparecchi grossi, per funzionare bene da un punto di vista ecologico devono essere alimentati praticamente. Se tu lo costruisci, in pratica è come se dicessi che non puoi arrivare a certi risultati di raccolta differenziale, perché comunque una parte la devi conferire là dentro, perché poi mangiano questa roba e addirittura alimentano un traffico dei rifiuti, anzi un turismo dei rifiuti, li porti in giro per portarli in regioni che l'hanno costruito ma magari non hanno quel supporto di rifiuti perché diventano virtuose. È proprio sbagliato ormai un tempo. Sì. Vabbè, però ecco Tozzi, possiamo dire invece una cosa con simpatia, ma a chi sta in Campania o in Sicilia dove gli inceneritori ce ne sono pochi, forse uno o due, è che credo che Napoli stia ancora esportando i suoi rifiuti da qualche parte, sì, perché non riesce a smaltirli, che lì forse ci vuole da qualche parte un termovalorizzatore. Allora, lì dove ci sono questi inceneritori o dove la costruzione è già avviata, perché ci vuole un po' e poi costano, quindi io lì non ne farei una battaglia di questo tipo. Il problema casomai è che per combattere gli inceneritori si dice no a tutti gli impianti di trattamento, compresi quelli che lavorano a freddo, al biologico, che lavorano sull'umido, i compostaggi, e allora diventa una sindrome NIMBY, cioè che tu non vuoi nulla, proprio nulla, e questo io sono molto contrario. Per quanto riguarda gli inceneritori, siccome comunque sono impianti industriali, è vero che hanno carichi inquinanti limitati, ma soprattutto per quello che riguarda le polveri sottili e le diossine, anche se lavorano a temperature di esercizio elevate, che in genere non ne producono tante, comunque si accumulano. Cioè è un carico suppletivo inquinante, non è diciamo il tabù assoluto, però se posso evitarlo, e oggi posso evitarlo, ma perché no? Oltretutto, dove la raccolta differenziata è bassa e tu c'hai un inceneritore come al sud, non è un incentivo a non farlo. Rischi di fare di sedersi prima su quello, buttare tutto là dentro. Sì, invece ci sono città italiane straordinarie, no? Per dire Parma, credo che sia, abbiamo sentito ieri Pizzarotti, ha oltre il 70% di raccolta differenziata. Milano, ecco, se Roma facesse o Napoli quello che fanno Milano e Parma, saremmo a posto, credo, no? Per i prossimi secoli. Certo che sì, diciamo che Roma in qualche misura lo sta cominciando a fare, perché cominciano con le raccolte differenziate spinte, quelle che ti vengono proprio dentro casa, praticamente il porta a porta, che ha un senso da questo punto di vista. Ricordiamoci che Roma ha chiuso la più grande discarica d'Europa, quella di Malagrotta, quindi lì un certo problema di riflesso ce l'hai avuto, perché poi si rifiuti da qualche parte li devi portare. Ma è logico che dove c'è una situazione d'emergenza, un inceneritore che sia quasi pronto, io non ne farei una questione così determinante per percentuali prefissate di rifiuto. E quando diventa l'impianto industriale per eccellenza, che non è la maniera giusta per trattare i nostri scarti, che devono diventare risorse, non li devi bruciare, devi fare in modo di produrne sempre meno e di riutilizzarli sempre di più. Mario Tozzi, autore anche di un libro, Tecno Barocco, nel quale, nel quale è interessante perché si narrano così, diciamo, le vicende di alcuni bizzarri marchingegni tecnologici che però sono del tutto inutili, cioè quando la tecnologia non ci migliora la vita. No, ne ricordo uno al volo, se si può, in una radio così seria. Il cesso giapponese, posso dire questa parola? Si può, domenica mattina si può lo stesso dire? Sì, si può dire. Il cesso giapponese, sentiamo, io questa la conosco. È quella con gli schizzini, è quello? È una roba che un meraviglia tecnologica, esatto. È riscaldato, si alza la ciambella elettricamente, c'ha la doccetta per farti le pulizie, c'ha la musica, l'acqua colorata, il profumo, quello che ti pare, ma è elettrico. E se manca la corrente, che bisogno c'è di piegare? Se salta la luce, addio, basta, non si può più andare a fare... Vabbè, però anche il telefonino è elettrico, insomma, non è che quindi uno... Ma infatti io sul telefonino qualche perplessità ce l'ho. Voi comprereste mai un elettrodomestico che funziona in cucina e non in camera da pranzo? Col telefonino facciamo questo, perché dove non c'è il campo non funziona. Certo. Io mi porrei qualche domanda sugli aggeggi tecnologici. Questo è un esempio molto bello. Infatti è molto bello in questo libro il fatto di chiedersi che la tecnologia del terzo millennio in realtà non aiuta gli uomini, non è semplice, spesso non è utile e non è nemmeno educativa. E quindi... E anzi, mi è piaciuto molto il punto in cui quasi lei spiega che serve a rimediare a problemi della tecnologia precedente, cioè la tecnologia che c'era 10 anni fa ha creato dei danni, per cui creiamo una nuova tecnologia che risolve il problema di 10 anni fa. Esatto, e poi ce ne vorrà un'altra ancora per riparare. Il caso classico è quello del petrolio. Quando sversi il petrolio in mare, usi i solventi chimici per eliminarlo, ma poi inquini con quelli. È un delirio autoalimentante, non usciamo mica fuori. A me invece è piaciuto l'esempio del display della elettronico di molti elettrodomestici, della lavatrice, per cui è fighissimo, cioè, ti comunica anche lì, ci parli praticamente, però se si rompe quel display lì, praticamente la lavatrice, che devi fare? La lavatrice è inutilizzabile, però funzionerebbe ancora, cioè c'hai un oggetto che funziona meccanicamente ed elettricamente, ma che non puoi governare perché c'ha un display del tutto inutile. Spiegatemi a che serve quando le manopoline con le loro tacchette andavano benissimo. Beh, a me serve a usarla come giustificazione per poter portare i panni a mia mamma e dire da un anno che mi si è rotto il display. Allora, quello è un altro discorso. Va bene, quello va sempre bene. Grazie mille, Mario Tozzi. Arrivederci, buona domenica. E se volete approfondire tutto, Tecno Barocco in audio editori, lo trovate in libreria naturalmente. A me questa cosa del display della lavatrice io l'avevo sempre pensata, devo dire, in solitudine. Nella solitudine mentre parlavi con l'uomo di fronte alla lavatrice. Esatto. E dicevo, ma te pensi, se poi si rompe, cosa che succede regolarmente, poi dopo che fai? Butti via tutto. Ma nell'automobile è molto così, no? Ormai ti dicono, mi hanno raccontato perché io non ho la patente, però ormai ti dicono si è rotta la centralina, lì non c'è niente da fare. Non è che puoi dire ho capito, ma non mi può mettere un po' di spago o qualche cosa in modo che io riesca ad arrivare almeno fino a Viterbo con la macchina? Un tempo no, non c'è la centralina. C'erano operazioni da leggenda, aprivi il cofano, mettevi mano, le candele, le puntine. Adesso hai bisogno di un nerd probabilmente che riesca a entrare col proprio telefonino dentro nella centralina e ti faccia ripartire la macchina, dicendogli anche che non dà emissioni. 800 24 00 24, tra poco anche con gli ascoltatori, ci risentiamo tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Allora, eccoci qua con gli ascoltatori. Iniziamo con Graziella che chiama da Grosseto. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, benvenuta, grazie, siete bravissimi. Graziella, grazie. Che bella voce, da sentire così la domenica ci tira su di morale. Oh. Graziella, grazie, sembra che ci siamo incartati, ma è così, si chiama Graziella. Grazie. Su cosa vuole intervenire? Allora, io vorrei intervenire per il personaggio. Ah, io speravo solamente per fare i complimenti, ero già contento. Veramente ci sarei tutta la mattinata a farvi complimenti. No, stavo scherzando, anzi chiedo scusa. Chi è il personaggio? Matteo Salvini. Per quale motivo? Io ora il motivo non me lo ricordo, però era una conferenza, ma non mi ricordo il motivo. Perché va sempre bene, Salvini in un'intera settimana con una notizia su Salvini c'è sempre. Salvini va bene per i talk show perché tira sull'audience, cioè, va bene per gli audio, giochi, per gli audio da mandare sempre. Per i giochi della settimana sui personaggi perché ci sta sempre bene. Soprattutto ero interessato a sapere se ha sentito il secondo indizio che era si è commosso. E si è commosso, sì, infatti la cosa proprio straordinaria è proprio questa, ma da Matteo Salvini mai e poi mai ci si potrebbe immaginare capire... un pochino di... Ma quando si è commosso? Volevamo però, sapere quando si era commosso. Si è commosso durante la conferenza. Però non mi ricordo per qual motivo. Ragazzi, Lorenzo Nespoli in redazione là dietro, vedete un po'. Comunque direi che dalla nostra titubanza si può rendere conto che non fosse lui il personaggio della settimana. Però la ringraziamo moltissimo. Adesso andiamo a cercare la notizia della commozione di Salvini. Non so se fosse peccato quando che ha detto non aveva dei dettagli. Io lo ospiterei a casa mia, però solamente un bilocale. Sì. Forse quello, vabbè, non lo so. No, io quello l'ho visto, però lì non si era commosso. A meno che non si sia commosso un'altra volta dopo, forse. Camerino. Pensando che alla balla spaziale che stava dicendo, no, adesso sto scherzando. Esatto. Mario da Chieti, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'occasione. Prego. Una considerazione molto, molto semplice, banale se volete. Nella prima parte della trasmissione, l'eccellente spiegazione del professor Ritto sul problema del software Volkswagen. Sì. E poi avete parlato nel giornale radio delle 9 di un richiamo di un milione di automobili da parte della Volkswagen per aggiornare il software. Ma le macchine col software aggiornato sono prestazioni diverse e minori, giusto quello che diceva il professor Rizzo. Scusi, non l'abbiamo sentito perché è andata via un attimo la linea, scusi. Dalla Volkswagen perché ha una macchina non con le prestazioni promesse all'arco del contratto. No, ma credo che l'aggiornamento del software non sia nel senso di aggiornarlo di modo che imbrogli sulle emissioni, ma di aggiornarlo in modo che invece non sia più quello che imbroglia sulle emissioni. No? Certo, ma se non imbroglia sulle emissioni, lei dice che poi rimane la macchina inquinante. Penso di sì, però io questo non onestamente non so che tipo di aggiornamento sia questo software. Io perché lei invece stava dicendo si abbasseranno le prestazioni della macchina, in questo senso? Ma non credo che lo Stato gli permetta di aggiornare le macchine per farle circolare più inquinanti. Speriamo non di no. Non lo permette. Io ho capito, allora Mario, grazie, mi fate un po' pena tutti e due perché è una cosa complicatissima, non ci capisce niente nessuno. No, io ho capito che bisogna richiamare il professor Rizzo per farsi spiegare bene questa cosa qua, ma domenica prossima, sabato prossimo, vedremo. Bruno da Belluno, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi consentito di intervenire. Prego. Io volevo intervenire sul problema delle emissioni e la mia considerazione si rilascia ai dubbi espressi dall'ascoltatore precedente. Allora, che cosa accadrebbe, e la mia riflessione arriverà un po' più in là, che cosa accadrebbe se i software fossero aggiornati e gli utenti si trovassero in mano delle auto che consumano molto di più e che sono inguidabili, oppure che non hanno le prestazioni promesse, ma soprattutto che consumano di più? Sarebbero veicoli conformi? La mia riflessione vuole essere questa. Non ho capito, scusi, qual è la domanda vera che lei fa? Questa è una domanda retorica. La mia considerazione è questa. Sì. I prodotti sono realizzati e sono certificati in laboratorio spesso per ottenere degli eccellenti risultati con l'ossessione di ridurre l'anidride carbonica, di ridurre le emissioni nei cicli di test. Poi nella realtà le cose sono ben diverse. Io posso dimostrarle, nella mia esperienza guido delle auto cosiddette di elevata cilindrata e hanno sempre consumato meno, se usate con criterio, di molte utilitarie che vengono conclamate per i bassi consumi, i quali bassi consumi si riscontrano solamente in laboratorio a prezzo di complicazioni tecnologiche. Quindi qual è la sua conclusione, Bruno? La mia conclusione è questa, che questo problema non riguarda solo il settore automobilistico, ma tutti quegli oggetti che vengono definiti a basso consumo, ma che il basso consumo forse ce l'hanno solo nel ciclo di ecolavaggio che dura 3 ore, come la lavastoviglie che ho acquistato, che mi lascia i piatti sporchi e che e che non me li asciuga. No, è molto allora, chiaro, è molto chiaro quello che sta dicendo, solo che in questo momento, diciamo, quelli che sono stati beccati sono loro. Se poi lei sta dicendo che forse anche tutte le lavatrici emettono di più di quello che dicono perché imbrogliano durante i test, questo noi non lo sappiamo perché non facciamo test su lavatrici. Però è vero una cosa, che in qualche modo questo scandalo della Volkswagen potrebbe diventare per diciamo per la grande industria quello che è stato Lehman Brothers per la finanza, cioè il primo tassello di un domino, no? Che svela tutta una serie di cose, perché se siete gli ascoltatori il sospetto c'è. Certo. Noi ci auguriamo che non sia così e sicuramente non sarà così. No, anche però, perché è molto importante questa questione dell'inquinamento. È arrivato un altro messaggio che dice: Gabardini, una singola vita è più importante e più grave dell'inquinamento. Sono d'accordissimo, messa così, perché uno dice: vedi, c'è il morto e quindi è un problema. Ma ci dimentichiamo sempre e continuamente che l'inquinamento fa morti, semplicemente che vengono dilazionati, non sai quando muoiono e non sai per che motivo muoiono, esattamente quali sia il rapporto causa-effetto. E poi non puoi più chiederglielo dopo e che è quindi è molto pericoloso dire no, è molto più grave quando c'è un morto per strada piuttosto che l'inquinamento. Antonella da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno. A tutti e due. Grazie. Secondo me il personaggio della settimana è John Bonner, lo speaker della Camera, perché si è commosso, ecco, si è messo a piangere senza ritegno davanti al Papa. Sì, è proprio scoppiato in un pianto. È scoppiato proprio in un pianto, era evidentemente molto commosso. E dal pianto all'applauso, perché ha vinto lei con il personaggio era lo speaker repubblicano John Bonner della Camera, appunto, esatto, che si è commosso durante il discorso del Papa, vistosamente commosso. E poi si è dimesso, insomma, un personaggio ha colpito tutti, perché si è visto che ha avuto questo moto proprio di commozione istintivo, poi spontaneo. Le dimissioni in Italia fanno colpire tutti, perché la gente l'ha tolta dai dizionari la parola dimissioni, quindi esatto. No, infatti, ma oltretutto dimissioni immediate, perché mi sembra che a fine ottobre, ecco, una cosa rapida, ecco. Va bene, una cosa impensabile da noi. Grazie, esatto. Antonella, buona giornata. Grazie mille, buona giornata. Grazie. In questo caso vince il catalogo del MUDE, che è il nuovissimo, appena inaugurato, Museo delle Culture, c'è a Milano. Interessantissimo, andatelo a visitare. MUDE, il catalogo edito da 24 Ore Cultura. Ci fermiamo per il traffico tra un attimo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore. Eccola qua, la versione Children della celeberrima canzone di Sergio Endrigo. E questo è un non si può fare, eh? Questo è un non si può fare. E noi, caro sindaco di Prato, Matteo Biffoni, abbiamo un po' la lacrimuccia, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Glielo diciamo subito, siamo un po' così, un po'. Abbiamo il morale sotto i tacchi. Un albero per ogni bambino nato, lo prevede una legge in Italia, ma a Prato avete detto... Non si può fare. Ma no, non siate tristi, anzi dovete essere felici. Io sono il sindaco di una città che ha oltre 28.000 piante negli spazi pubblici, quindi senza contare i privati, e ha 4 milioni metri quadrati di verde. Lega Ambiente ci ha detto siamo all'ottavo posto in Italia per aree verdi totali. Ah, bravi. Semplicemente noi, siccome vogliamo essere persone serie, abbiamo detto, in un'area così grande, in una città così densa, piantare oltre 3.000 alberi l'anno per i nuovi bambini diventa un'operazione sostanzialmente impossibile. Ma perché voi avete un tasso di natalità così spinto? Noi sì, siamo una città che cresce in controtendenza rispetto a tante altre città. E poi avete tutto questo verde, evidentemente il bosco aiuta la crescita demografica del paese. Andare in camporella, vuol dire. Sicuramente io non volevo dirlo, ma... Prego. Ma in Camporella, sai, se poi ci metti gli alberi, le macchine mica dove le parcheggi, perciò bisogna trovare anche si va in bici, si va in bici in Camporella, infatti, cioè, solo a Prato. Il sindaco Biffoni è prontissimo, c'è la battuta pronta. E quindi voi dite, abbiamo già tanto verde e non abbiamo spazio per... No, noi vogliamo essere sterici, come la legge intelligente, sì. E secondo me è una grandissima legge, molto ben fatta. Ah, questo mi fa piacere. Questo è bello dirlo e ribadirlo. Certo, assolutamente. Noi abbiamo detto, noi con quei ritmi lì, un mandato di un sindaco pianta 15.000 alberi, 15.000. C'è una roba che riempie una foresta, leva i giardini pubblici, se no diventano delle giungle, giustamente i bambini non possono entrare, leva il bordo fiume perché il bordo fiume c'è motivi di pericolo, leva lungo le strade perché è pericolo per il mercato pubblico e motocicli. Abbiamo detto, bene, facciamo una cosa seria, siccome lo spirito della legge lo condividiamo, noi per tutti i giorni dell'anno, siccome nascono sempre, piantiamo un bell'albero, fatto bene, di quelli grossi, non alberelli e dopo un quarto d'ora... Ogni giorno dell'anno, quindi... Tutti i giorni degli anni, sì. 365 belli alberi, dove i bambini nati quel giorno, il giorno del compleanno, gli diciamo quello è il tuo albero, gli alberi, gli alberi. Così vi risparmiate 3.200 così alberi. Fate come la Volkswagen, truccate i dati. No, noi proprio, io su questo come dire, se non siamo stati trasparenti. Stiamo scherzando, è molto chiaro il discorso che sta facendo, ed è anche comprensibile. Noi volevamo chiederle piuttosto perché non li viene a piantare a Milano, ecco, se si può avere una deroga e gli alberi dei bimbi di Prato vengono piantati a Milano. Quindi, noi la nostra quota la cediamo volentieri, se c'è qualcuno ne ha bisogno siamo più che disponibili. Questo sarebbe un bellissimo, secondo me ne abbiamo bisogno. Magari andare in qualche posto dove la natalità è un po' più bassa e quindi diciamo tipo non lo so, a Milano. No, forse Milano no. Però scusi, noi abbiamo una città che siamo molto giovani, c'è un'immigrazione importante che fanno molto, cioè, quindi i figli da noi sono un patrimonio e un bellissimo investimento. Quindi noi anche con le scuole abbiamo lo stesso tipo di, tra virgolette, problema. Per me non è un problema, è una bellissima sfida e sono molto contento di dover aumentare le aule tutti gli anni. Sì. Però è anche vero che poi bisogna fare i conti con la realtà, perché io non voglio prendere in giro i miei consigli. Ma comunque potremmo assestarci su un albero al giorno e una panchina anche, così stiamo cercando di contrattare un po'. Panchine ne mettiamo quante ne volete. Oppure un albero e un vaso d'ortensie, che ne so. Comunque l'importante è il sindaco di Prato Biffoni, che lei dica che condivide lo spirito di questa legge, piantare in ogni comune un albero per ogni nuovo bimbo, perché non vorrei che invece magari qualche altro comune più piccolo sente che a Prato fanno così, dice vabbè, se lo fanno a Prato allora deroghiamo anche noi. Noi abbiamo una situazione contingente che chiunque voglia venire a vedere gliela faccio vedere volentieri con i numeri che abbiamo, ripeto, stavi in Italia per sono dati lega ambiente. Mi sembra comunque al di là di tutto, in realtà sembrava non si può fare, in realtà è anche una buona notizia, perché di alberi ce n'è troppi. Poi in una città che si chiama Prato, che ci sia molto verde, ci sembra veramente stupendo. Va bene, sindaco. Comunque, sì, dica, prego. Io dico, fammelo ribadire. Lo spirito della legge è perfetto, è assolutamente condivisibile, a noi piace tanto. Però poi bisogna adattarlo alla realtà di ogni comunità, ecco. E ci riuscirete? Cioè, il ministro ha detto... facciamo un ottimo lavoro. Va bene. Comunque questa cosa qua di esportare gli alberi in più in altre città, ci pensi, sindaco Biffoni, perché così sarebbe perfetto, sarebbe la chiusura del cerchio. Italiane direi, non a Zurigo. Qualunque sindaco che vuole, diciamo, io sono prontissimo a cedergli la mia parte, come facciamo con gli spazi finanziari del bilancio. Quindi sindaci che siete in deficit o di natalità o di alberi, andate a Prato e troverete le porte aperte. Grazie Biffoni, mille, buona giornata. Sindaco, buona giornata, buon lavoro. Allora, siamo quasi in chiusura. Vogliamo sentirla la vocetta di Miss Italia, veloce, che ha fatto discutere tutti. Come si fa in questa settimana a non sentire questi 20 secondi straordinari? Entreranno nella storia. In quale epoca vi sarebbe piaciuto vivere e chi vorreste essere state? Nel 42, 942. Sì, per vedere realmente la seconda guerra mondiale, visto che i libri parlano pagine e pagine, la volevo vivere, però tanto sono donna, quindi il militare non l'avrei fatto, sarei stata a casa. Doveva fermarsi un secondo prima, era perfetta. Soprattutto su pagine e pagine, perché sembra semplicemente come dire: io quella roba non ce la voglia di leggere. Pagine parlano. Preferisco viverla. È come vedere il film. Dire: io non voglio leggere il libro della guerra, vorrei vedere il film. Poi dopo, se possibile, ha peggiorato le cose dicendo: io non ho insultato la guerra. Spero bene. Ma questo non so se c'è tempo per sentirla. No, dobbiamo chiudere. Ci sono i titoli del domenicale, ci sentiamo per i saluti tra pochissimo. Non c'è cancello, serratura o chiavistello che voi possiate mettere alla libertà del mio pensiero. Queste parole di Virginia Woolf sono importanti, sono uno dei due motivi fondamentali, ce ne sarebbero anche tanti altri, per leggere la domenica di oggi. Intanto perché ci sono i racconti di Virginia Woolf, un libricino che raccoglie la signora Dalloway in Bond Street e altri racconti, ma poi questa citazione si lega al gioco che abbiamo lanciato ormai da due settimane, che sta andando molto bene in Twitter, Paro Libere, questo è l'hashtag, partecipate tutti con citazioni, con frasi, aforismi importanti scritti soprattutto da letterati, cioè letterati che amano come Virginia Woolf e come le settimane scorse abbiamo visto Vargas Llosa, il premio Nobel della letteratura, o anche Giacomo Leopardi inaspettatamente, ma quasi un Milton Friedman ante litteram. Ecco, grandi letterati che hanno parlato di libertà. Paro Libere dunque è il gioco che noi vogliamo ancora continuare e che ha già riscosso tanto successo tra i nostri lettori. Questa settimana, tra l'altro, in copertina paradossalmente abbiamo un inedito di un grande intellettuale del Novecento, Sigmund Freud, niente meno. Si è scoperto da poco uno scritto che era rimasto del tutto inedito sulle pulsioni del presidente americano Wilson. Ecco, e allora Freud è strano, ma è un negatore della libertà, cioè colui che diceva che in fondo dietro tutte le nostre azioni non ci sono altro che pulsioni. Allora chiediamoci se ha ragione Freud o se ha ragione Virginia Woolf, e con Paro Libere noi pensiamo proprio che l'ago della bilancia dovrà spostarsi molto nella direzione appunto della grande scrittrice inglese. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo con Si può fare. Io saluto tutti. Vabbè, poi torni, saluti, certo. Poi, sì, poi. Un ringraziamento a Claudia Schiattone, Andrea Piana, autore insieme a noi del programma, Lorenzo Nespoli, Pietro Lacorte in regia oggi, l'abbiamo già detto, grazie a tutti, ci risentiamo sabato prossimo, buona giornata e buona domenica da Alessio Maurizio.